Radio 24 Reportage. Cinesi a passo di musica di Adriana Fracchia. L'Oriente avanza anche nella musica classica e i talenti asiatici sono sempre più numerosi. Il Giappone, la Corea, in particolare la Cina, sono una grande fucina di musicisti. E mentre in Occidente la cosiddetta musica colta viene percepita sempre più come elitaria, vecchia e polverosa, in Oriente, soprattutto in Cina, crescono in modo esponenziale gli studenti di musica classica. Sono infatti almeno 50 milioni i ragazzi che studiano uno strumento. Di questo passo, tra non molti anni, la Cina diventerà un grande paese anche sul piano della musica. E mentre a Pechino è tutto un fiorire di nuove orchestre, nel vecchio continente, particolarmente in Italia, molte rischiano di chiudere. Anche l'Orchestra Verdi di Milano ha corso questo rischio, ma tra sacrifici ed equilibrismi è riuscita a resistere. Oggi alla Verdi si continua a fare musica e anche con scelte innovative, come quella di affidare l'incarico di direttore musicale ad una donna, la prima a ricoprire un incarico simile in Italia e per di più cinese. Il suo nome è Xian Zhang, una scommessa da tutti i punti di vista, dicono i vertici della Verdi. E a Xian Zhang, anche direttore associato della New York Philharmonic Orchestra, abbiamo chiesto come si spiega questo grande successo della musica classica in Cina. I think the great success is yet to come. Io penso che il grande successo, dice Zhang Zhang, debba ancora arrivare in Cina. Quello più grande non è infatti ancora in atto, arriverà più tardi. Noi stiamo ancora migliorando e alzando il livello per ottenerlo definitivamente. Quanto al fatto che a Pechino ci siano molte orchestre, dice ancora Zhang Zhang, penso che c'entri con l'economia, perché la gente vuole conoscere sempre di più in quanto a cultura, musica ed arte. Ed è bellissimo, ciò non riguarda poi soltanto la musica, ma la pittura, le arti visive, la letteratura. Ci sono tanti happening in Cina. È un fenomeno culturale ed economico, ma è ancora in crescita e il vero successo deve ancora arrivare e quando arriverà sarà ancora più grande. Una nuova generazione di cinesi si prepara dunque a lasciare un segno nel mondo, con una determinazione e uno spirito di competizione che affondano le loro radici in un approccio diverso da quello occidentale. In Occidente la vita è più facile, la competizione non è così forte come in Cina, dice Zhang Zhang. Voi non siete così tanti e non avete problemi di spazio vitale. In Cina anche chi ha soldi è limitato. Per questo è più urgente il bisogno che i figli imparino ad essere molto competitivi via via che questi crescono, per essere capaci di affrontare poi più duramente i loro colleghi. Un'urgenza che è anche un modo di sopravvivere in Cina, anche oggi. C'è troppa gente, dice ancora Zhang Zhang, e bisogna provare ad essere molto bravi e fare cose straordinarie per avere successo quando si diventa grandi. In Occidente genitori e figli non hanno questa necessità, perché avete più opportunità. In Cina non è così. C'è troppa gente e bisogna essere davvero straordinari via via che si diventa grandi. È il nostro modo naturale di sopravvivere. Molti studenti orientali, dopo essersi formati nel loro paese d'origine, vengono a perfezionarsi in Italia e il canto è una delle discipline preferite. Anche da questo studente di nazionalità coreana che si sta perfezionando al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Vorrei cantare in Europa per lavorare anche. Ci sono tanti lavori anche in Corea, però un sogno il mio. Vorrei diventare un cantante e tutto il mondo è famoso, quindi adesso sto provando concorsi, anche audizioni, sempre dobbiamo provare così. Come ti chiami? E mi chiamo Joe, cognome Joe, nome Hyunil, italiano nome Davide. Ti trovi bene qui in Italia? Sì, prima volta è molto difficile, però adesso è molto interessante. Ci sono tanti coreani rispetto ai giapponesi, ai cinesi, agli altri orientali, diciamo. Siete in tanti qua? Sì, ci sono tanti coreani. Soprattutto per il canto? 70% è cantanti per canto, per studiare canto. Anche 20% è per studiare moda, fashion. ma come vedono la concorrenza orientale e i musicisti italiani? La spalla degli archi dell'Orchestra Verdi, Luca Santaniello. È indubbio che i ragazzi, i musicisti, i direttori d'orchestra orientali stanno comunque conquistando il mercato. Un po' come accade tra l'altro sul mercato, voglio dire, globale, in ogni ambito. E sta accadendo anche nell'ambito musicale. Io personalmente ho suonato sia in Giappone che in Cina e la cosa che mi aveva colpito era proprio l'interesse del pubblico per l'evento concerto di musica classica. In ogni data della tournée, anche in paesi che non fossero Tokyo, ecco, Osaka, le due città maggiori, c'era sempre tantissimo pubblico e questo, ahimè, la differenza con l'Italia, il pubblico era un pubblico educato, non che il nostro sia maleducato, ma educato nel senso che conosceva i brani che andavamo ad eseguire, ce ne accorgevamo per gli applausi al momento giusto, era un pubblico da questo punto di vista più educato. E poi un pubblico eterogeneo, ossia di età diverse, mentre ahimè in Italia il pubblico della musica classica è un po' anziano, diciamo, tra virgolette, perché i giovani hanno difficoltà ad avvicinarsi all'ascolto della musica. Che rischi ci sono per il futuro? Quando ero molto giovane io, ai concorsi arrivavano i primi dall'est e dalla Russia ed erano stupefacenti rispetto a noi. Poi ecco, lo scontro era impari, io ricordo. La stessa cosa sta un po' avvenendo adesso. Ovviamente l'ondata di musicisti che vengono dal Giappone, dalla Cina, dalla Corea, insomma, fa spavento perché appunto se su 10 milioni di violinisti mettiamo che 100 ne arrivano da noi, saranno dei super violinisti. Quindi numericamente partiamo già svantaggiati. Quindi sì, secondo me noi dobbiamo temere questa ondata di meravigliosi musicisti agguerriti e bravissimi. Io mi auguro dal confronto nasca il miglioramento. La ricetta qual è allora? La ricetta è quella di... Loro ci hanno rubato, ovviamente, dico rubare tra virgolette e in maniera assolutamente positiva, ci hanno rubato tutto quel talento musicale che noi avevamo, il bel canto, la musicalità, l'estro, la poesia, l'eleganza. Noi dovremmo cercare di rubargli un po' di determinazione, motivazione e metodo di studio. Per il compositore Antonio Rosnegri c'è anche un grosso problema di mancanza di fondi. Penso che la crisi che riguarda la musica in Italia sia soprattutto una crisi di fondi più che di interesse, nel senso che penso che alcuni stati lontani come la Cina e come alcuni paesi del Sud America abbiano scelto proprio di investire in questo campo. Quindi insomma non un allontanamento, diciamo, per una diseducazione alla musica? No, indubbiamente c'è anche un aspetto di distanza così dalla fruizione quotidiana della grande musica e comunque non mi riferisco certo solamente alla musica classica, però alla musica jazz, alla, diciamo così, alla musica fatta bene, insomma. Per cui certamente c'è un problema anche di sensibilità musicale che in Italia è acuito dal fatto che nei più bassi livelli di scolarità non ci siano sufficienti momenti per vivere l'esperienza musicale in modo anche attivo e non solo passivo, cioè non soltanto nell'ascolto, per cui indubbiamente c'è anche questo problema. Secondo il maestro Roberto Abbado, la politica penalizza la musica, ma si dice comunque ottimista per il futuro. C'è sicuramente da parte delle classi politiche c'è meno interesse per la musica, perché la musica è una forma d'arte cara e perché evidentemente la maggior parte dei politici non ha la preparazione per poter capire la bellezza, ecco, di questa forma d'arte. Per cui viene penalizzata, vengono penalizzate tutte le arti, vengono penalizzati tutti gli spettacoli. Quindi da un lato c'è questo, dall'altro lato l'Italia ha una tradizione musicale talmente forte, è una cosa che è veramente radicata nelle viscere, ecco, proprio degli italiani, per cui ci sommergeranno. No, perché si tratta di di talenti. I talenti ci sono là, ci sono in Europa ovviamente, ci sono in America, ci sono un po' in tutto il mondo. Ecco, la musica di bello questo, non ha, comunque le arti hanno di bello questo, non ci sono barriere, non ci sono frontiere, per cui semmai oggi, ecco, c'è sempre più scambio e questo è interessante, mi pare che sia stimolante.